cos'è l'isola di White? È per noi l'isola di chi ha negli occhi il blu della gioventù, di chi canta hippie, hippie, hippie, hippie, hippie. Al mercato un dì andai così per curiosare qui e là e non sapevo cosa fare. Fra divise blu e giacche lunghe di lamè ho visto te, miraggio bianco intorno a me. Sai cos'è l'isola di White? È per noi l'isola di chi ha negli occhi il blu della gioventù, di chi ama hippie, hippie, hippie, hippie, hippie, hippie, hippie. Senza una valigia io e te siamo partiti un giovedì, nei nostri occhi c'era un sì. Pioggia di farfalle intorno a noi, mi davi la tua gioventù, nessuno mi ha fermato più. Sai cos'è l'isola di White?